Grazie anzitutto. Nell'aprire poi questo tipo di discorso c'è anche una piccola dose di imbarazzo. Se fosse stato 30 anni fa, in una situazione di questo genere, probabilmente tutti avrebbero saputo di che cosa si parlava. Adesso non lo so se tutti sappiamo di che cosa si parla parlando dell'IWW o dell'IWW, perché anche la conoscenza storica è un percorso a ostacoli, è un percorso che a volte mette in circolazione dei materiali, delle informazioni, dei soggetti, che poi finito un ciclo politico, un ciclo culturale, un ciclo di cultura politica, rientrano un po' nell'ombra e la gente si dimentica. Ovviamente le persone si dimenticano della storia del nostro paese, figurarsi se non sono legittimati a dimenticarsi della storia degli industrial workers of the world. Detto questo, cercherò di dire le cose pensando anche che magari non tutti sanno quello a cui faccio riferimento, lasciando però aperta la possibilità a voi di fare domande e a noi di spiegarci nel caso che qualcosa non sia chiaro. Questa è un'organizzazione, dunque intanto poi faccio un altro riferimento, sabato su Alias, il supplemento di sabato del manifesto, è uscito un supplemento tutto dedicato a questo, a cui abbiamo contribuito sia Nando sia io, per cui anche i discorsi che faremo in parte riprodurranno quello che si trova in quei nostri contributi, perché non si può reinventare i discorsi ogni tre giorni, insomma. Ecco, detto questo, come premessa di carattere generale, c'è un dato di partenza che bisogna avere presente e di cui bisogna tener conto, l'idea che negli Stati Uniti non ci sia stata lotta di classe, che non ci siano state organizzazioni imperniate sulla lotta di classe, che non ci siano state organizzazioni che hanno tentato l'organizzazione dal basso in funzione appunto di una attività contemporaneamente, poi nel caso degli IWW, sindacale e politica, come era successo prima e come succederà ancora dopo gli inizi del Novecento. Queste idee, chi le pensa sbaglia. Quindi togliamocele dalla testa. Negli Stati Uniti c'è stata lotta di classe e c'è stata al punto, e ci sono state le classi, e ci sono state al punto che, dopo che, scusate la immodestia molto, molto così, molto andante da quasi da circolo familiare, dopo che gente come noi l'ha ripetuto per 30 anni e altri diversi da noi l'hanno ripetuto per i 70 anni precedenti, il New York Times tre settimane fa è uscito con una serie di articoli intitolati Class Matters, cioè la classe conta. Cioè anche loro hanno riscoperto che negli Stati Uniti le classi ci sono e ci sono sempre stati. E vabbè, e noi abbiamo la soddisfazione di dire l'abbiamo ripetuto per decenni. Vabbè, rimaniamo lì. Allora, le classi ci sono state, c'è stata la lotta di classe e questa è una delle organizzazioni che rappresenta uno dei punti più alti del tentativo di definizione dello stato dei rapporti di classe e del tentativo di organizzare la lotta di classe. In particolare, dal punto di vista che in questa fase a me interessa di più, in particolare di organizzare quelli che nella nostra realtà odierna, anche nella nostra realtà italiana odierna, definiremmo i precari. Nella seconda parte del mio pezzo di Alias arrivo a questo punto, cioè gli IWW cercarono di rivolgersi a un soggetto sociale e antropologico, direi, che era costituito dai milioni di immigrati e di loro figli, che costituivano la stragrande maggioranza non soltanto della classe operaia negli Stati Uniti, ma anche la stragrande maggioranza della popolazione delle città degli Stati Uniti. Negli anni 1880-90, più dei tre quarti degli lavoratori manuali negli Stati Uniti sono costituiti di immigrati e dei loro figli. Alla fine del secolo, dell'Ottocento, quando New York ha una popolazione di 3 milioni e mezzo di persone, l'85% della popolazione di New York è costituita di immigrati e di figli di immigrati. Ora l'IWW, o l'IWW, prende atto di questa trasformazione radicale della realtà sociale e cerca di fare di queste persone i destinatari del loro messaggio sindacale e politico. È un'operazione, è una fatica di Sisifo, cioè è un'operazione straordinaria, è un'operazione che nessuno negli Stati Uniti ha tentato come loro, nei modi in cui lo tentano, questa operazione la tentano loro, e anche con i gradi di successo a cui arrivano loro. Naturalmente però, e questo è un altro elemento che ci riporta a ragionare anche sulla realtà nostra attuale, questo tipo di figura sociale, l'immigrato, è una figura intanto estremamente composita. Gli immigrati sono immigrati da 60 o 70 paesi diversi, che parlano 30 o 40 o 50 lingue diverse, una parte dei quali sono atei o agnostici o non gliene frega niente della religione, ma una parte sono persone che hanno un qualche tipo di formazione religiosa o addirittura anche di pratica religiosa, e in questo caso si tratta di molte religioni diverse, dal cristianesimo all'ebraismo, al cattolicesimo, al protestantesimo, a religioni come nel caso dei persiani, che non sono né cristiane né ebraiche, e così via. I persiani, dei siriani sono musulmani e così via. Cioè c'è il tentativo di rivolgersi a un complesso di figure sociali estremamente composito, che gli imprenditori nei 20 anni, 30 anni precedenti hanno posto estrema cura nel mantenere separati, divisi, diversi tra di loro, e quindi in questo senso è una fatica di Sisifo. Dicevo, gli imprenditori hanno posto cura nel tenere queste persone separate, intanto sulla base di quel vecchio principio del dividere e controllare, cioè tutta questa gente la si tiene divisa e la si può controllare. E il modo per tenerli divisi era di metterli al lavoro fianco a fianco, un italiano, un greco, un siriano, un quebecchese, uno spagnolo, eccetera, eccetera. Cioè metterli di uno vicino all'altro, persone che non parlavano la stessa lingua, non avevano le stesse credenze, non avevano le stesse abitudini, ma neppure le stesse abitudini alimentari, non avevano lo stesso retroterra familiare e così via. Il senso di questa cura era quello di mantenere il più possibile divisa questa popolazione di, come dicevano loro, di schiavi salariati. E naturalmente ci sono i racconti di alcune di queste persone che dicono anche, certo, eravamo lì, tutti parlavamo una lingua diversa dall'altra, tutti dovevamo far ricorso in qualche modo all'inglese per intenderci, la prima parola che abbiamo imparato è stata strike, cioè sciopero. E questo fa parte dei meccanismi elementari attraverso cui si è costretti, quelli che fanno ricerca storica, a indagare i meccanismi attraverso cui questa classe operaia così composita riesce, è riuscita a superare le divisioni interne e a costituirsi in classe operaia, a riconoscersi in classe operaia e a ragionare, per così dire, come si diceva una volta, in classe operaia per sé, cioè classe operaia che si organizza e cerca di raggiungere dei suoi obiettivi. Attraverso che cosa? Attraverso la lotta di classe. Questa gente, la stragrande maggioranza di questa gente, era composta di operai dequalificati e di manovali. La storia, che ovviamente non possiamo fare in questa sede, ma la storia della classe operaia negli Stati Uniti nel corso dell'Ottocento è una storia che, mentre da una parte registra la trasformazione che dicevo, cioè la trasformazione dei soggetti, arrivano decine di milioni di immigrati tra il 60 e la prima guerra mondiale, 1860 e la prima guerra mondiale ne entrano quasi 35 milioni. Allora gli operai americani di nascita, poco per volta è come se venissero tutti a raccogliersi nella punta dell'iceberg, quella che viene fuori al di sopra delle onde e diventano i capi squadra, i capi reparto, diventano i dirigenti, diventano gli impiegati. Perché? Perché hanno una storia che appartiene ad una fabbrica, ad una storia operaia diversa, e è la storia dell'operaio di mestiere. Allora, attraverso il mestiere vengono cooptati, diciamo così, ai livelli superiori, o addirittura escono dalla classe operaia. Nello stesso momento in cui l'introduzione della meccanizzazione rende meno necessario il lavoro qualificato, perché si tratta di andare a lavorare alle macchine. Ford nel 1915 potrà vantarsi del fatto che l'80% delle persone che lavorano nelle sue fabbriche non hanno bisogno di più di 6 giorni di addestramento per fare le mansioni a cui sono chiamati. Ecco, è questa gente che diventa operaio industriale. Questa gente che viene da retroterra agricoli, come il caso degli italiani, da retroterra di piccolo commercio, come il caso degli ebrei polacchi o russi, che viene da retroterra agricoli, come il caso di altri immigrati mediterranei e così via. Ecco, questa gente va tutta a lavorare in fabbrica, nelle diverse fabbriche, come lavoratori non qualificati. Ma siccome il sindacalismo è stato fino a questo momento sindacalismo di mestiere, con alcune eccezioni peraltro anche molto significative, questa gente rimane fuori dalle organizzazioni. Allora l'IWW, gli IWW, organizzano, cercano di organizzare questa gente, ma non soltanto di organizzarli sindacalmente, ma anche di proporre a questa gente di essere protagonisti di un progetto di trasformazione radicale della società. Già i cosiddetti cavalieri del lavoro avevano in mente un progetto di trasformazione su basi cooperativistiche. 1880 fino ai primi anni 90 dell'Ottocento. Loro, gli IWW, propongono ai loro soggetti una trasformazione radicale. Il punto di svolta di questa trasformazione radicale è quello che chiamano, che definiscono lo sciopero generale. Intorno allo sciopero generale, nell'IWW e intorno all'IWW, sia nel Partito Socialista, nell'ala sinistra del Partito Socialista, sia tra gli anarchici o gli anarco-sindacalisti, si discute a lungo che cosa deve essere lo sciopero generale. Esistono interpretazioni diverse. Tuttavia lo sciopero generale è, quale che sia poi la specifica, è il momento in cui la classe operaia unita si impadronisce degli strumenti della produzione e comincia a produrre per sé, assumendo nelle proprie mani il controllo della produzione e, all'interno del contesto statunitense, il controllo della società che sta intorno alla produzione. Della società perché, non dimentichiamo quello che ho detto prima, i lavoratori, questi lavoratori, sono la stragrande maggioranza della popolazione lavoratrice negli Stati Uniti. Ora, perché dicevo, questa idea è una delle idee che ancora ci possono interessare? Perché quella di organizzare gli immigrati, quella di organizzare quelli che non hanno mestiere, quella di organizzare i lavoratori meno socialmente forti, protetti della società, è un'idea, una prospettiva che nel sindacalismo non rivoluzionario statunitense del resto del Novecento è entrata pochissimo, solo in alcuni momenti e in alcuni casi particolari, ed è stata poi cancellata nella seconda metà, dopo il secondo dopoguerra, sostanzialmente cancellata, e poi è stata ripresa come uno dei tentativi di rivitalizzare il sindacalismo dell'American Federation of Labor oggi, negli ultimi anni, quando in alcune aree come quella di Los Angeles i lavoratori immigrati sono l'assoluta maggioranza in alcuni settori, e quindi i sindacati non hanno potuto fare altro alla fine, se volevano incrementare, rafforzare se stessi, che andare a rivolgersi agli immigrati, che esattamente come i neri si sono dimostrati poi i più disponibili alla sindacalizzazione. Ora, questo è un punto che a noi interessa perché la trasformazione della società nella quale viviamo ce l'abbiamo sotto gli occhi. È inutile farla lunga su questa cosa. La classe operaia in Italia ha subito una trasformazione che è in corso, e o il sindacato, quale che sia, rivoluzionario o no, quale che sia, si pone il problema dell'organizzazione di questa gente, oppure è destinato a fare la fine del sindacato negli Stati Uniti, che da una parte ha rinunciato alla lotta di classe e dall'altra parte ha rinunciato a organizzare queste figure, e alla fine è arrivato a meno oggi nel settore privato, in particolare nel settore industriale privato, la quota di sindacalizzazione negli Stati Uniti è pari al 7,8%, cioè il sindacato è ridotto alla irrilevanza. Ora, in Italia non siamo a quel punto, non siamo esattamente su quella strada, e comunque i sindacati in Italia non sono esattamente come i sindacati negli Stati Uniti. Tuttavia, si affronta il problema di organizzare questa gente nella loro precarietà, nella loro insicurezza, nella loro assenza di coperture, nella loro assenza di radici anche. Oppure anche qui, da una parte il sindacato è destinato a essere sconfitto, dall'altra parte, attraverso anche la sconfitta del sindacato, siamo destinati ad una ulteriore scomparsa di quel poco che rimane dell'idea delle lotte di classe, e quindi siamo destinati ad un annichilimento delle forze, diciamo così, di una sinistra che si ponga un problema di cambiamento sociale. Già di questo, del cambiamento sociale radicale, si parla molto poco, ma se andiamo avanti su queste strade non se ne parlerà proprio più per niente, se non ne parleranno appunto alcuni pochi nostalgici e pochissimi che hanno la memoria lunga. Allora, il discorso intorno agli IVV oggi per me è questo, da riprendere e da rimettere in circolazione. Sono anche un altro tipo di struttura rispetto a quello che ha caratterizzato una parte della nostra storia e della storia dei movimenti operai a livello internazionale. E aggiungo ancora questo piccolo elemento e poi mi fermo. Cioè, la storia dei nostri movimenti operai è una storia sostanzialmente di movimenti operai che hanno adottato e poi col tempo trasformato e anche abbandonato il modello leninista, cioè il modello dell'avanguardia organizzata della classe. E l'avanguardia organizzata era un'avanguardia strutturata gerarchicamente che si poneva il problema di guidare, in quanto depositaria del disegno di trasformazione sociale, di guidare la massa dei non articolati, come si dice negli Stati Uniti, cioè di quelli che non hanno gli strumenti della teoria. L'IWW è un esempio, secondo me molto importante, di tentativo di organizzazione diverso, cioè è un'organizzazione relativamente poco gerarchica, molto orizzontale, non piramidale. I dirigenti sono dirigenti che svolgono degli incarichi e non che assumono dei ruoli di dei ruoli di direzione riconosciuta, consacrata, rispettata, e che li colloca al di fuori o al di sopra dei militanti. Sono militanti come tutti gli altri, che fanno esattamente tutte le altre cose, tutte le cose che fanno tutti gli altri, e che hanno degli incarichi. Carichi di responsabilità, cioè hanno delle responsabilità maggiori. E infatti nell'avvicendamento, nella rotazione degli incarichi, addirittura nell'esito o nell'uscita dall'organizzazione di alcune di queste figure, si incarna proprio esattamente questo. William Haywood, una delle figure più famose, più amate e rispettate di questa organizzazione, è uno dei portavoce degli organizzatori di questa organizzazione, e sta per 7-8 anni, non ricordo più esattamente quanti, senza neppure avere in tasca la tessera dell'IWW. E tuttavia, quando milioni di persone pensano a quell'organizzazione pensano a lui. Eppure quando una parte della dirigenza è in prigione, e questo è l'ultimo atto, poi quello della repressione, una parte della dirigenza è in prigione e lui è una delle figure più rappresentative che ha il compito di organizzare l'assistenza per quelli che è in prigione, e però è malato, è stanco, è stato in prigione anche lui, è malato, è stanco, è diabetico e ha ripreso a bere e quindi non è più del tutto affidabile, benissimo, dura in quell'incarico per 2 anni e mezzo e poi viene sostituito. Ecco, voglio dire, ci sono queste, in un'altra organizzazione sarebbe stato necessario un congresso per defenestrare il dirigente, sarebbe stato un trauma, mentre invece in quell'organizzazione così sciolta, diciamo, e non gerarchica, queste cose sono possibili. Ovviamente questo ha i suoi lati positivi e anche i suoi lati negativi, cioè un'organizzazione che è più difficile da tenere insieme, ma è più difficile da tenere insieme anche perché i soggetti di quell'organizzazione sono quella classe operaia composita che è instabile, che dicevo. Quindi i problemi non è che non ci siano, i problemi ci sono, loro li affrontano in modi straordinari. Negli scioperi ci sono 10-12 organizzatori diversi che parlano 10-12 lingue diverse e si rivolgono ai 10-12-15-20 gruppi di operai che sono in grado di parlare quella lingua e non quell'altra. E riescono a fare degli scioperi che hanno fatto epoca nella storia degli Stati Uniti e della lotta di classe negli Stati Uniti. Ora però, e questo è l'ultimo punto, ora però ovviamente questo tipo di sindacato che propone questo tipo di prospettiva, che organizza questo tipo di classe operaia in nome di quel tipo di obiettivo, cioè di trasformazione radicale dell'industria, della democrazia industriale di cui parlerà Nando, diventa il pericolo maggiore. Nel 1917, quando gli Stati Uniti entrano in guerra, la prima legge speciale, diciamo, che fanno, la chiamano legge sul sindacalismo criminale. Ed è fatta apposta per colpire l'IWW, dicendo che il sindacalismo dell'IWW è criminale e quindi la legge deve fornire gli strumenti per attaccare quell'organizzazione. E poi passeranno un'altra serie di leggi, tutte finalizzate a impedire la produzione e la circolazione della propaganda, a mettere in prigione alcune centinaia dei dirigenti locali a livello nazionale dell'IWU, e quindi a distruggere gli uffici, a razziare, distruggere gli uffici, gli schedari, gli impianti per la stampa, a distruggere gli archivi, a fare piazza pulita dell'organizzazione e sostanzialmente a sopprimere questa organizzazione, non soltanto l'IWW, anche la sinistra socialista, e arrivano perfino anche ai socialisti non di sinistra. C'è un socialista di destra, della estrema destra socialista, che è eletto rappresentante nel Congresso degli Stati Uniti, viene deposto da autorità, Victor Berger, viene deposto da autorità. Quindi il livello della repressione contro questa organizzazione e tutto quello che stava intorno, cioè sindacalisti rivoluzionari, anarcosindacalisti, anarchici, socialisti di sinistra, socialisti anche di destra e poi dopo il 19 anche comunisti, si fa letteralmente piazza pulita. Tanto era pericolosa questa organizzazione, tanto pesante è stata la repressione. Ho ricordato i Cavalieri del Lavoro degli anni 80 e fino ai primi anni 90 dell'Ottocento. Quell'organizzazione che proponeva la riorganizzazione della società sul modello cooperativo, in quel momento era stata vista esattamente come pericolosa allo stesso modo dell'IWW ed era stata spazzata via con gli stessi metodi repressivi polizieschi, giudiziari e politici. Allora, l'ultimo punto è legato a questa fase, a questo aspetto. L'IWW è stata letteralmente spazzata via, poi esiste ancora ed è diventata un'organizzazione sempre più direi coerentemente anarchica. Negli ultimi anni il suo progetto è diventato sempre più coerentemente un progetto che si identifica con alcune correnti dell'anarchismo, non neppure con tutto l'anarchismo. Tuttavia dall'inizio degli anni 20 questa organizzazione ha smesso di essere un'organizzazione di massa e ha smesso di essere veramente rappresentativa, ma le è stato impedito con metodi che non hanno niente da invidiare ai metodi con i quali, in posti come l'Italia, il fascismo è arrivato al potere. Ovviamente, là, dopo 5 anni di repressione parafascista, dentro e fuori delle fabbriche, le cose sono cambiate. Qui, dopo alcuni anni di repressione fascista, siamo arrivati al fascismo. E queste sono diversità che comunque, all'interno di un discorso più grande, è opportuno tenere in conto, però voglio dire, quella società democratica, quando ha individuato un pericolo, lo ha letteralmente spazzato via con la violenza.